Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Che cosa distingue le eccellenze, i grandi, quelli che passano la storia? Beh, potremmo dire per esempio che un'eccellenza è uno spartiacque, quelli per i quali si può parlare di un prima e di un dopo, quelli che sono riusciti a cambiare le regole del gioco. Ecco, oggi voglio raccontarvi una storia, peraltro una storia di vita e di morte, legata al mondo delle radio. È la vicenda di un uomo, un ebreo americano, che ha uno show radiofonico. E in questo show lui attacca senza peli sulla lingua i peggiori stereotipi dell'America razzista, populista, antisemita, facendo emergere l'aspetto forse peggiore, comunque l'aspetto poco raccontato di una nazione profondamente divisa da tensioni razziali e sociali. È la storia di Alan Berg. Alan Berg è finito per caso a condurre una trasmissione radiofonica che è stata capace di suscitare negli anni '80 un dibattito violentissimo su temi scottante sulla razza, sulla religione, sulla sessualità. È un dibattito che lo ha fatto diventare bersaglio di odio e di minacce, fino a un tragico e incredibile epilogo finale. Siamo a Denver, Colorado, 18 giugno 1984. Alan Berg ha appena terminato di cenare con sua moglie Judith Lee. I due sono separati, si sono incontrati per tentare una riconciliazione e Alan sta tornando a casa alla guida del suo maggiolino nero. Ha appena raggiunto l'ingresso del suo appartamento in Adam Street. Un'auto si accosta, dentro ci sono quattro persone, sono i suoi assassini. Mi dispiace disturbarla, mi farebbe un autografo per favore? È andato forte stasera. Certo, come ha detto che si chiama? Sei fottuto, stronzo! Alan Berg non fa in tempo a uscire dall'auto. Da una calibro 9, una mitraglietta, vengono esplosi 12 colpi proiettili. E lo raggiungono al tronco, alle braccia, al viso, si conficcano nella lamiera del garage. Il conduttore radiofonico muore sul colpo. Alan Berg nasce a Chicago all'alba del 1 gennaio del 1934. La sua è una famiglia ebrea. Il padre Joe è un dentista, però lavora nel quartiere cristiano della città e tra i due c'è un rapporto conflittuale. Alan non sopporta la chiusura mentale, ma soprattutto l'ipocrisia del padre, che fuori dalle mura di casa si comporta da laico e quasi nasconde la sua impostazione religiosa, mentre in famiglia è il classico ebreo osservante, e quindi Alan lo vede come un bigotto, un intollerante, forse anche un opportunista. Il giudizio di Berg per questo padre dalle due facce è molto duro. Lo giudica un senza fegato, un uomo che non ha il coraggio di far sentire la propria voce. Alan peraltro è un ragazzo ambizioso in quella Chicago, brucia le tappe anche nelle vicende sentimentali. Si sposa a 17 anni per la prima volta, il matrimonio dura meno di un mese. Pochi anni dopo, il secondo matrimonio con Judith Lee, lui ha 23 anni e Judith è una donna speciale che comunque avrà un ruolo fondamentale per tutta la vita di Alan. E Alan, lui studia a Denver, dopo la laurea in legge torna a Chicago dove avvia la sua carriera, una carriera di avvocato, e non si fa scrupoli pur di avere successo. Accetta di lavorare anche per la mafia, che lo sceglie per difendere i propri accoliti, i propri picciotti. Insomma, diventa l'avvocato di Cosa Nostra, quello raccontato in tanti film, a partire dal Padrino di Coppola. Mister Corleone vuole comunicarci l'identità della persona che oggi siede alla sua sinistra. Posso rispondere io. Si chiama Vincenzo Pentangeli. È un parente del testimone? Sì, penso il fratello. Che venga qui a prestare il giuramento. Senta, quest'uomo non capisce una parola di inglese. Viene dall'Italia, sue spese, a confortare il fratello in questo brutto momento. Non è qui per testimoniare. E la sua reputazione nel suo paese è impeccabile. Lei dice che non sa nulla della materia dell'inchiesta? Che io sappia, non sa niente. Insomma, io vorrei capire che diavolo sta succedendo qui dentro. Bene, l'udienza della commissione è rinviata. Il testimone può andare, non serve più. Senatore, questa commissione ci deve delle scuse. È una scena celeberrima del Padrino. Comunque, torniamo a noi, torniamo a lui. Berg non ci mette molto a capire la strada che ha preso, perché è diventato simile a tutto quello che lui odia, perché difende criminali, perché i suoi strumenti di lavoro sono la menzogna, l'ipocrisia, proprio quello che lui rimproverava a suo padre. E l'effetto di questo disagio interiore è l'abuso di alcol. Piano piano questo distrugge il suo matrimonio. E Judith lo lascia, lei torna a Denver, lui rimane da solo a Chicago e non regge molto. Dopo un po' di tempo segue la moglie proprio a Denver, lui decide di sottoporsi a un percorso di riabilitazione. È una terapia lunga, dolorosa, ma alla fine ce la fa, si rialza, è un suo piccolo, grande, personale colpo d'ala. Da quel momento in poi non toccherà mai più una sola goccia di alcol. E lui è pronto a ricominciare, a cambiare il suo stile di vita, però proprio dopo la riabilitazione arriva una tegola terribile, perché gli viene diagnosticato un tumore al cervello. È ovviamente un periodo durissimo che lui affronta con determinazione, si sottopone a un intervento chirurgico molto delicato e gli salva la vita questo intervento. A ricordare quel passaggio della sua vita resterà una vistosa cicatrice sulla testa, nascosta negli anni con una folta capigliatura. Poi, una volta ristabilito, lui ricomincia da capo da tutti i punti di vista, abbandona la professione di avvocato per andare a lavorare in un negozio di abbigliamento a Denver. Insomma, in qualche modo, grazie a questo lavoro, comincia a emergere la sua anima da intrattenitore, da venditore. I clienti se ne accorgono, tornano solo per farsi servire da lui. E tra questi clienti c'è un certo Lawrence Gross, che è un conduttore della radio KGMC di Denver. Tra i due c'è subito una sintonia. Gross gli propone di diventare la sua spalla in onda. Alan ha una voce graffiante, è una personalità quasi ingombrante. Insomma, secondo Gross potrebbe veramente funzionare davanti a un microfono. Ma sai che hai una bella voce? Voce? Hai mai lavorato alla radio? Beh, ci ho pensato di fare un po' di... Adesso devo scappare, vado sempre di corsa. Vince, mandami la giacca a casa. E tu fa un salto allo studio, te lo faccio visitare con piacere. Ti faremo dire due parole al microfono. Questo è un estratto dal film Talk Radio. Comunque, questo è il primo passo della carriera radiofonica di Berg. Lui inizia a far radio in un modo che poi diventerà la sua cifra stilistica, perché istiga gli ascoltatori, li invita a dar sfogo ai loro sentimenti più nascosti, gioca a smentire con la sua dialettica tutte le tesi che si fondano sull'odio e sull'intolleranza, mostra la ferita. E questa vena provocatoria e lo farà licenziare spesso, lo costringerà a passare di stato in stato, dall'Oklahoma al Michigan, e attirerà l'attenzione degli estremisti, soprattutto i suprematisti bianchi e insomma e quelli figli del famigerato Ku Klux Klan. Siamo alla fine degli anni 70 e Alan Berg ormai è stabilmente un conduttore radiofonico. La sua carriera da avvocato è solo un ricordo. Lui davanti al microfono ha sviluppato il suo stile e ha trovato la sua vita. Ormai è una missione per lui, la sua missione è questa: provocare gli ascoltatori, far emergere gli istinti peggiori delle persone che lo ascoltano. Lui vuole smascherare l'ipocrisia dell'America perbenista del suo tempo, dimostrando che dietro una facciata di business, di rampantismo, dietro al grande sogno americano, ci sono razzismo, intolleranza e molta, molta rabbia. Naturalmente è un modo di fare radio che non gli attira grandi simpatie, in particolare da parte di quella popolazione di ascoltatori che diventa il bersaglio delle sue invettive, in particolare diciamo i neonazisti. E c'è un episodio che risale al 79 che fa capire contro chi si è messo Berg. Lui in quel momento sta lavorando per la KWBZ, una stazione radio del Missouri, è in diretta e al telefono c'è un certo Fred Wilkins. E Berg non sa chi è questo Wilkins, in realtà è un pezzo grosso del Ku Klux Klan, ricopre la carica di Gran Dragone del Regno del Colorado. Ecco cosa va in onda. Are you saying the Jews are conspiring? Stai dicendo che gli ebrei stanno cospirando contro il mondo? Lascia che ti dica una cosa. È una domanda. Puoi rispondere sì o no. Risponderò come mi pare. Gli ebrei sono dietro il marxismo, c'è scritto anche nella Bibbia. Ah, sei stato al tempio di recente. Sicuro di non essere ebreo, Fred? Il tuo lavoro è di stare zitto e ascoltarmi. Da quando qualcuno come te può dirmi le regole del mio show? Dannato codardo, se pensi di poter vomitare la tua immondizia antisemita dove ti pare, ti sbagli di grosso. Non è così che funziona. Lo sai che voi ebrei siete responsabili della morte di milioni e milioni di cristiani? E tu come hai fatto a sopravvivere? Sei malato, malato di brutto, Alan. E tu sei un antisemita, un vero antisemita! E non è neanche la cosa peggiore. Non c'è ragione o logica in quello che dici. Grazie mille per aver chiamato. E qui si scherza col fuoco. Una settimana dopo, quello stesso ascoltatore irrompe nello studio mentre Berg è in diretta, gli punta una pistola al petto, gli dice: mi chiamo Fred Wilkins e tu morirai. Però non gli spara, scappa subito, verrà catturato qualche giorno dopo, verrà accusato, le accuse verranno fatte cadere, perché questa è l'America ed è questa l'America che Alan Berg mette sotto i riflettori. E non sono solo minacce, perché nell'ombra qualcuno si sta organizzando per fargliela pagare. Nel febbraio dell'81 Berg viene assunto in una radio di Denver, la KOA, va in onda con uno show che viene ritrasmesso in oltre 30 stati e naturalmente imposta subito il suo programma secondo il suo stile. Intanto una trasmissione senza filtri, dove può parlare chiunque e dire qualsiasi cosa. Ovviamente molti di voi stanno pensando quello che penso io, cioè a trasmissioni tipo La Zanzara. Lui interloquisce, reagisce, apre un dibattito anche di fronte alle tesi più estreme. La sua posizione non è neutra, anzi lui litiga con gli ascoltatori, li irride per le posizioni estremiste, interpreta la parte del difensore dei diritti delle minoranze razziali, religiose e sociali. Insomma, la trasmissione diventa una specie di terapia di gruppo. Lui spinge le persone a chiamarlo, le provoca, cerca lo scontro, tira fuori il peggio di loro. È un gioco pericoloso, perché Alan, a differenza di tanti altri, non è uno che si nega, non si nasconde. Il suo numero telefonico e il suo indirizzo sono nell'elenco a disposizione di tutti. Gli ascoltatori del programma non sono solo quelli che oggi chiameremmo haters, molti invece riconoscono la sua ironia, la sua difesa delle minoranze, molti lo apprezzano, di sicuro non è indifferente a nessuno. Io sono nero. Beh, buon per te, che cosa vuoi, una medaglia? No, niente medaglie, non mi prendere in giro come fanno tutti. Ci tengo a dirti che mi piace molto il tuo programma e vorrei aggiungere che mi piacete voi ebrei. Beh, a me piacete voi neri, ce ne dovremmo tenere sempre uno a casa. Il talk show occupa uno spazio che all'inizio ospitava un programma di rock and roll e nei primi tempi gli ascoltatori erano rimasti spiazzati quando al posto di Chuck Berry venivano aggrediti da questa voce veloce, nasale. E molti telefonano durante la trasmissione, gli urlano il proprio disprezzo: ti odio, fai schifo, stai zitto, perdente. Lui non teme niente e nessuno, perché manda tutti in onda, restituisce tutto al mittente senza complimenti, insulta gli spettatori moderati definendoli noiosi, taglia le telefonate quando gli pare, aggredisce verbalmente magari anche quelli che chiamano per complimentarsi. Insomma, diventa una leggenda e iniziano ad arrivare le prime minacce concrete. E adesso abbiamo in linea Chet da Meschiti in linea. Sì, Chet? Così adesso tutta la nazione sarà infettata dalla tua boccaccia. Ah, Chet, che piacere sentirti. Perché perdi tempo con me invece di impiccare i negri o violentare bambini? Preferisco parlare con te. Perché non vai a mungere un toro invece? Tu credi di essere furbo. Hai ricevuto il pacchetto che ti ho mandato giù allo studio? Mi hai mandato un regalo, Chet? Ero indeciso se metterci un detonatore oppure no. Lo scoprirai quando aprirai il pacchetto. Un minuto, calma. Vuoi dire che mi hai mandato una bomba per posta? Incartata in carta da pacchi. Scommetto che ce l'hai sotto gli occhi. Basta prendere un po' di plastico, avvolgerci una manciata di bulloni e un po' di sassetti e il gioco è fatto. Se fossi in te direi alla mia segretaria di telefonare alla polizia. La squadra artificieri ci mette una decina di minuti ad arrivare. Artificieri? Ma perché dovrei chiamare gli artificieri, Chet? Perché un microcefalo razzista come te mi sta dicendo che c'è una bomba tra la mia posta? Gioca, gioca. Ah, falla finita! Berg è diventato una star, però sta scherzando col fuoco. Intanto molte importanti stazioni radio lo cercano, da Chicago a New York, però lui sta bene a Denver, è la sua strada, e lui racconterà che fare la trasmissione è terapeutico per un tipo come lui, è un modo per incanalare la sua rabbia, per darle uno scopo, ma tra chi lo ascolta ci sono persone nelle quali sta montando una rabbia ancora più pericolosa, perché una rabbia lucida. Il falco e il gabbiano. Oggi vi sto raccontando la storia di Alan Berg, che ha fatto della sua voce un uso senza precedenti nel mondo della radio americana e nel mondo della radio in generale. Lui è un conduttore radiofonico ebreo, provocatore per vocazione, attivo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, cioè in un decennio di grandi tensioni sociali, politiche negli Stati Uniti, in un mondo segnato dalla guerra fredda con l'Unione Sovietica. Bene, lui non ha peli sulla lingua, parla al suo pubblico, non dà mai spazio alla retorica, ai luoghi comuni, ha una trasmissione popolarissima e odiatissima sulla radio KOA di Denver. Era finito quasi per caso in radio e lui in breve tempo ha trovato la sua linea, ha trovato il terreno fertile per sé e per il suo pubblico, l'ha trovato nei temi più controversi dell'epoca, con uno stile incalzante, ha stuzzicato sempre i suoi interlocutori su sesso, su religione, su pregiudizi sociali, razziali. Lui capisce che parlare di tabù e in generale di tutto quello che la gente non confessa è il modo migliore per ritagliarsi una importante fetta di pubblico. Però lui non lo fa solo in nome degli ascolti, dell'audience, lui è un eroe romantico, un difensore delle minoranze, dei più deboli, e questo naturalmente lo porta a scontrarsi con alcune delle realtà più oltranziste, cioè i razzisti, i neonazisti, molto attivi in quegli anni negli Stati Uniti. E la sua trasmissione dà voce a quell'America nascosta, quella che non finisce nelle pellicole di Hollywood, ma che si nutre di odio, di razzismo, soprattutto verso i neri, verso gli ebrei. Arriviamo al settembre del 1983. Berg conduce la sua trasmissione e sta litigando con gli ascoltatori lontano da Denver, però succede una cosa: c'è un uomo che sale su un palco di fronte a una folla attenta. E non è un uomo qualsiasi, si chiama Robert J. Matthews, è un neonazista americano. Sarà lui a ordinare l'omicidio di Alan Berg. È di lì a 9 mesi. Il palco in questione è in Virginia, Arlington. E con queste parole Matthews chiama alle armi le persone accorse per ascoltarlo. Thank you, Mike. My brothers, my sisters. Fratelli e sorelle, vi porto un messaggio di solidarietà, un invito all'azione e la richiesta di aderire al vostro dovere in quanto membri dell'avanguardia di un risorgimento ariano e della vittoria ariana definitiva. I segnali di questo risveglio stanno germogliando attraverso il Nord-Est, così come all'interno della classe lavoratrice e contadina, una parte del nostro popolo che è stata colpita duramente, nel profondo, dagli sporchi bugiardi ebrei e dal loro parassitario sistema di usura. Dalle valli, dai campi coltivati, sgorga l'ariana e contadina orda. La sua bandiera si dispiega alla brezza d'aprile, cosicché l'ariano contadino insorga e liberi per sempre, questo mondo dall'ebreo. Il discorso di J. Matthews segna la nascita della Fratellanza Silenziosa, The Order, una organizzazione terroristica in lotta per la supremazia bianca. E l'obiettivo dichiarato di questa organizzazione è una rivoluzione vera e propria che porti alla nascita di uno Stato autonomo, libero da neri e ebrei. The Order si finanzia con furti, con rapine in banca e si manifesta al mondo e ai media attraverso attentati dinamitardi. Il passo successivo è la redazione di una lista nera in cui compaiono nomi di giudici, di politici, di esponenti del mondo dello spettacolo, e in quella lista in cima c'è Alan Berg. Lui, Alan Berg, era entrato nella lista della confraternita dopo un confronto in diretta radiofonica nel quale aveva attaccato l'opinione del movimento Identità Cristiana, l'opinione secondo la quale gli ebrei discendono direttamente da Satana. L'attentato viene pianificato per mesi, l'attentato contro di lui, messo in atto la sera del 18 giugno dell'84. C'è un'auto dalla quale partiranno i colpi di mitraglietta contro Berg, e lì ci sono quattro persone, e tra queste c'è proprio lui, Jay Matthews. Il finale ve l'abbiamo già raccontato. Lui stesso si definiva l'uomo che amate odiare, e gli investigatori a Denver credono che qualcuno lo odiasse davvero, il conduttore radiofonico Alan Berg, così tanto da sparargli davanti casa lunedì notte. E questo è uno dei primi commenti di un notiziario dell'epoca. Bene, dei quattro membri di The Order che erano presenti la sera del 18 giugno, solo due verranno incriminati, e tra l'altro per reati diversi dall'omicidio. Due di loro, che sono David Lane e Bruce Pierce, che dovranno scontare complessivamente 442 anni di carcere per cospirazione e violazione dei diritti civili. E il pubblico alla notizia dell'omicidio telefona sconvolto in radio, qualcuno incredulo, qualcuno lo ricorda con affetto. Come diceva sempre Barry, se io non ti piaccio, cambia stazione. Insomma, non c'era bisogno di ammazzarlo. Secondo me è stato quel ragazzo, quello che avevano invitato allo show. E sapete che vi dico? Se rubi una cosa, ti dovrebbero tagliare le mani. E allora, secondo me, bisogna ammazzarlo, quel ragazzo. Io non gli avevo mai telefonato. E adesso mi dispiace, a me non ha fatto niente. Nemmeno ha riattaccato il ricevitore. Io sento la sua mancanza. È un po' come quando ti rompi un braccio e te lo ingessano, e quando ti tolgono il gesso, senti che ti manca qualcosa. Dopo la sua morte, in tantissimi vanno davanti al suo appartamento, per giorni si fermano in silenzio sul luogo dell'omicidio, qualcuno lascia fiori nei buchi delle pallottole sulla porta del suo garage. E di lui la maggior parte della gente conosceva solo la voce, però tanti raccontano di sentirsi come se si fosse creato un vuoto, perché al pubblico quella voce manca quel modo di fare così arrogante, fastidioso, tagliente, un modo di fare che però teneva tutti incollati alla radio. Mi rivolgo direttamente alla gente e questo loro lo amano. Non mi sopportano, ma tornano sempre ad ascoltarmi perché non hanno idea di cosa potrei fare o dire. E per questo vogliono esserci. Non sanno se sarò serio o divertente, se in un colpo solo rovinerò la mia intera carriera o se andrò fuori di testa. Questo perché, prima della trasmissione, non lo so nemmeno io. Quell'incertezza li tiene incollati. Le loro vite non sono poi così eccitanti. Rispetto a quello che di solito succede a Denver, io sono dannatamente eccitante. Alla fine la forza di Berg era proprio questa, la provocazione, era la sua cifra stilistica, la sua linea editoriale, era particolare così com'era. Unico il suo rapporto con gli ascoltatori, perché lui si accaniva contro chi chiamava per insultarlo, però anche contro chi si complimentava con lui in maniera esagerata, insomma ridicolizzava tutti. E a chi conosce Radio 24 non può non venire in mente subito una trasmissione, La Zanzara e il suo conduttore. E quindi Giuseppe Cruciani, tanto ciao, grazie di essere qua con noi, di aver fatto questi 8 metri che ci separano, ma noi stiamo parlando di Alan Berg, e naturalmente, insomma, oltre a sapere chi è, ammetterai che ci sono dei punti di contatto tra te e Berg, insomma, è il tuo, devi, quello che Bowie rappresenta per me, no? Spero non il finale, no, a meno che non mi vogliate morto, anche, no, anche voi. Ci sarò anch'io a difenderti. Sì, ci sono dei punti di contatto, non c'è dubbio, per il linguaggio, per la sfrontatezza, anche se poi uno la dovrebbe proclamare ma la dovrebbe praticare, e certamente per un carattere un po' ribelle anche di fronte agli sponsor, di fronte alle possibilità di ingrandirsi, di avere sempre più successo, lui preferiva essere e rimanere se stesso. Spero non il finale, ripeto. Spero no, il finale. Poi una storia radiofonica che si consumò in realtà in pochi anni. Sì. si consumò sostanzialmente. Morì a 50 anni, quanti noi adesso? Sì. Ma si consumò, si consumò in 5-6 anni. Un po' ti preoccupa questa, questa, un vegano che ti spara tofu. Ma i vegani, diciamo, non hanno ancora questa, non hanno ancora preso le pistole in mano. Però, insomma, qualche volta qualche timore c'è. Senti, ma tu, come dire, io ti ascolto spessissimo. Ogni tanto sembra proprio che tu stia gongolando, cioè capisci quando c'è la preda. Beh, e la tecnica è far diventare, la tecnica poi insomma mi viene abbastanza naturale, di far diventare una cosa piccola una storia radiofonica di 15-20 minuti. Sì. Cioè prendere una cosa piccola che è ovviamente spesso frutto di un freak, di quello che noi chiamiamo un freak, sì, cioè un matto, certo. Una persona che ha un picco di estremismo in quel momento, sì, che gli parte una piccola vena o che ha uno scatto poi alla fine anche di sincerità, e di scavare su questo atto di sincerità per portarlo fino all'estremo. Per tirar fuori il peggio di lui. Sì, anche. Ma il peggio oppure addirittura è meglio, perché le persone qualche volta si liberano di quello che vogliono dire, che noi intendiamo come peggio, poi nella discussione, nella nostra analisi dice tiri fuori il peggio, magari tiro fuori quello che persone vogliono che sia tirato fuori, che non è necessariamente il peggio. Certo. Senti, nel caso di Berg era certamente il peggio, perché fu una trasmissione che si è voluta anche un po' come la mia, cioè partita da lui che faceva dei monologhi, parlava con gli ascoltatori, e poi a un certo punto è diventato il raduno certo, di tutte le disgrazie, se vogliamo, di tutte le disgrazie degli estremismi di quella della piccola parte comunità peggior che l'America non raccontava, cioè sì, che nessuno la stava raccontando. Esatto. Senti, la novità della Zanzara rispetto a Berg è il tuo antagonista, Berg era da solo. E qui abbiamo Parenzo. Che in realtà è l'ebreo, lui era ebreo, Berg è più, forse è più Berg lui. E anche Berg con la voce un po' che chioccia. Esatto. Sì. E che tu a volte sembra, non voglio dire che tu sia il burattinaio, non sarebbe onorevole per lui, però ogni tanto lui sostiene delle tesi palesemente che non stanno né in cielo né in terra. Lui la pensa veramente? Questo te lo chiedo da fan della Zanzara. Lui è una persona. Cioè lui quando dice che convinta, è giusto accusare il poliziotto che spara alle gomme, lui ci crede veramente? Io penso che ci creda, sì. Anzi, sono certo del fatto che crede a tutto quello che dice. Quindi potrebbe essere potenzialmente. Può giocare sulle sue candidature, sulle sue cose, però lui è molto più a rischio di me da un certo punto di vista. Beh, sì. Perché, per esempio, l'odio nazista barra diciamo estremista nero, comunque. Leghista, se lo prende tutto lui. Sì. Perché io sono un po' un romano leghistizzato, che si è fatto nordista. È vero. Senti, tu ti poni mai il problema del limite? Cioè, no. Cosa non superi? No, non vorrei nulla. Superarlo sempre. Qualche volta mi fermo, naturalmente. Mi fermo davanti alla salute delle persone. Mi fermo davanti. Non ci siamo fermati quella volta davanti, per esempio, hanno fatto una petizione contro di noi di fronte ad una nonnina che è stata picchiata da due extracomunitari. Cui abbiamo chiesto scusa, ma semplicemente perché qualche volta entriamo nel gioco di catturare una persona e farla nostra con i nostri metodi, e dunque un po' di giocarci anche intorno. Questa qua era stata un po' seviziata da due marocchini, l'abbiamo un po' presa in giro sul fatto che era andata a fare una manifestazione sotto casa di questo marocchino che era ai domiciliari, e ci hanno scritto di tutto sui giornali del Veneto, petizioni online per chiudere la televisione. Però no, di solito no, e anzi credo di averne troppi. Stranamente penso di averne troppi di limiti. Cioè, quindi cioè ne ho ancora alcuni, non lo so, però ne ho ancora alcuni, e forse il contesto mi ancora un po' mi limita. Ma qualche volta mi trattengo e mi pento di essermi trattenuto, anche nelle domande, nelle cose, non vorrei essere ancora sei di più. Sei un po' un timido, un introverso. Sì, ogni tanto faccio prevalere la mia timidezza. Senti, l'ultima cosa volevo chiederti, uno dei grandi pregi, prima di Berg, ma oggi della Zanzara, e non mi vengono in mente tanti altri esempi, è far capire cosa interessa realmente alla gente. Cioè, noi apriamo i giornali e vediamo delle cose, la scissione del PD, il welfare, e la gente a volte non sa neanche bene perché si vuole scindere il PD o che cosa sia il welfare, ma soprattutto è assolutamente da un'altra parte. Allora ti chiedo, ma perché gli altri non la capiscono e tu sì questa cosa? È un po' quello che faceva Berg, che se un po' se ne fregava dell'attualità sì, giorno per giorno, ed è una cosa che mi è venuta negli ultimi anni, perché in realtà c'è stata una trasformazione. Anch'io prima occupavo di tutte queste cose che riguardano la politica politicienne, come si dice in francese, cioè di politica proprio dei piccoli accordi o delle dinamiche della politica tra i partiti. Poi ho abbandonato questa cosa per consunzione o anche per mia noia, e effettivamente cerco di capire quello che può più scaldare. È stato il colpo d'ala della zanzara. Quello che più appassiona le persone, dagli immigrati a modo mio, naturalmente in un modo spesso fatto di contrapposizioni, certamente non di riconciliazione, non dobbiamo riconciliare niente, non dobbiamo fare la pedagogia di nulla, però parlare di immigrazione, parlare di omosessualità, parlare di sicurezza e di altre cose ancora, quello che tu dici, quello che interessa le persone, comunque quello che interessa le persone che chiamano e che ascoltano. Giuseppe, ti ringrazio a e voi. Continuerai. Alan Berg è uno talk radio insieme a un altro film che si chiama Betrayed, se non sbaglio. Sì, sì. È uno dei film della mia crescita. Sì. Ti abbraccio. Lo immagino. Ciao. Ti abbraccio anch'io. Ciao. Ciao. Ci sono storie che magari sono sconosciute o di cui non sappiamo abbastanza, di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala e a volte lo hanno pagato caro, come nel caso di Alan Berg, persone che comunque hanno rappresentato uno spartiacque, ce l'ha confermato anche il nostro amico Giuseppe Cruciani. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, venite nei miei, nei nostri social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese, con la collaborazione degli studenti del Master in Radiofonia della 24 ore Business School, Riccardo Carrà, Fabio Donolato, Giulia Lauricella, Andrea Pistorio, Enrica Sinesio.